la vera bellezza, l'interiorità e l'anima. Conoscere se stessi, a quanto pare, è l'insegnamento più grande fra tutti. Infatti, chi conosce se stesso conoscerà Dio, e chi ha conosciuto Dio diventerà simile a Lui, non indossando vesti intessute d'oro né abiti lunghi, ma compiendo opere buone e avendo bisogno del minor numero possibile di cose. Che non abbia bisogno di nulla è solo Dio, ma egli si rallegra nel vedere che noi ci manteniamo innanzitutto puri quanto all'ornamento della mente e poi anche che ci rivestiamo per l'ornamento del corpo del casto abito della temperanza. Ora, l'anima è tripartita. Vi è la parte intellettiva, quella che viene chiamata razionale, che è l'uomo interiore, colui che governa questo uomo esteriore visibile. L'uomo interiore, poi, è guidato a sua volta da un altro, ossia da Dio. Vi è poi la parte irascibile, che è bestiale e dimora vicino alla follia. La terza parte, infine, è quella concupiscibile, multiforme, più varia del demone marino, Proteo. Essa continuamente cambia forma, seducendo e spingendo all'adulterio, alla lascivia e alla corruzione. In principio era un leone dalla bella criniera. È un ornamento che posso ancora tollerare, quello della barba, segno di virilità. Poi un serpente, un leopardo o un grande cinghiale. E qui la passione per gli ornamenti è scivolata nella dissolutezza. Non posso più accettarlo. L'uomo diventa simile a una bestia. Divenne poi fluida acqua e albero dall'alta chioma. Ecco che le passioni si riversano fuori, sgorgano i piaceri e marcisce la bellezza, quando le violente onde dell'erotismo si abbattono contro la bellezza, essa cade a terra più velocemente di un petalo, e prima ancora che giunga l'autunno marcisce e si corrompe. La concupiscenza, infatti, per opprimere l'uomo, si trasforma in ogni cosa e assume ogni forma, volendolo ingannare. Ma quell'uomo in cui inabita il Logos non assume diverse forme, non manipola e rimodella se stesso, poiché ha già in sé la forma del Logos, è somigliante a Dio, perciò è bello senza doversi imbellettare. È la vera bellezza, è Dio. Infatti quell'uomo diventa Dio perché Dio lo vuole. Disse bene Eraclito: gli uomini sono dei. Gli dèi sono uomini e lo stesso Logos. Mistero manifesto. Dio è nell'uomo e l'uomo è Dio, e il mediatore compie il volere del Padre. Mediatore, infatti, è il Logos comune ad entrambi, essendo figlio di Dio e salvatore degli uomini. Di lui è servo, di noi è pedagogo. Ora, essendo la carne schiava, come attesta anche Paolo, come si potrebbe ragionevolmente adornare questa ancella a mo' di prostituta? Che la carne rappresenti la condizione di schiavitù lo dice l'Apostolo quando, parlando del Signore, dice: «Poiché svuotò se stesso assumendo la condizione di schiavo». Definisce schiavo l'uomo esteriore, quello che era prima che il Signore stesso si facesse schiavo e si incarnasse. Ebbene, Dio, che ha voluto soffrire con noi, ha liberato egli stesso la carne dalla corruzione e, sottrattala alla mortifera e amara schiavitù, l'ha rivestita di incorruttibilità, avvolgendola con questo santo ornamento di eternità che è l'immortalità. Carità è seguire la natura. Vi è però ancora un'altra bellezza dell'uomo, la carità. La carità, dice l'Apostolo, è magnanima, è benigna, non è invidiosa, non è millantatrice, non si gonfia. Ed è in vero millanteria quell'imbellettarsi che si presenta come immagine del superfluo e dell'inutile. Per questo aggiunge: non si comporta in modo indecoroso. Indecoroso è ciò che è alieno, ciò che non si conforma alla natura. Perciò alieno è ciò che è artefatto, come spiega chiaramente l'Apostolo dicendo: non cerca ciò che non è suo. Ciò che le appartiene, la verità, lo chiama suo proprio. La passione di adornarsi, invece, cerca ciò che è alieno, essendo lontana da Dio, dal Logos e dalla carità. Lo Spirito attesta per bocca di Isaia che il Signore stesso era brutto di aspetto. Lo abbiamo visto ed ecco non aveva apparenza né bellezza, ma il suo aspetto era spregevole, reietto davanti agli uomini. Eppure, chi è migliore del Signore? Ma egli mostrò non la bellezza illusoria della carne, bensì la bellezza vera, e dell'anima e del corpo. Dell'anima la beneficenza, della carne l'immortalità. Non bisogna imbellettarsi. Non bisogna curare la superficie, ma l'interiorità, condanna della cosmesi femminile. Non bisogna quindi abbellire l'aspetto dell'uomo esteriore, bensì l'anima con l'ornamento della virtù. Si potrebbe dire che bisognerebbe abbellire anche la carne, ornandola però con la continenza. Queste donne invece si imbellettano alla superficie, ma negligono le profondità interiori e non si accorgono di ornarsi così a guisa dei templi degli Egizi. Presso costoro, infatti, i propilei e i recinti, i boschetti e gli atri sono molto curati e i cortili sono circondati da innumerevoli colonne. Le pareti brillano per le pietre preziose provenienti dall'estero e tutto è perfettamente decorato con i capolavori di pittura. I templi risplendono per l'oro, l'argento e l'elettro, luccicano per variegate pietre dell'India e dell'Etiopia e i portali sono ombreggiati da drappi intessuti d'oro. Ma se ora procedi verso l'interno del sacro recinto, desideroso di vedere ciò che vi è di migliore, cercando cioè la statua del Dio che inabita il Tempio, ecco che un sacrestano o qualche altro chierico incaricato del santuario, con sguardo solenne, salmodiando qualche giaculatoria in lingua egiziana, solleverà leggermente la tenda e ti mostrerà il Dio. E allora ti verrà da fare una gran risata per ciò che lì viene venerato. Infatti non vi si troverà dentro quel che cercavamo e alla cui vista aspiravamo, cioè un Dio, bensì un gatto, un coccodrillo o un serpente locale, oppure qualche altra simile bestia indegna del Tempio, degna piuttosto di un antro, di una tana o di un pantano. Il Dio degli Egizi si rivela essere così un animale che si voltola su di un letto di porpora. Ora, queste donne cariche d'oro, che si sistemano con cura riccioli e trecce, si mettono creme sulle guance, si anneriscono le ciglia, si tingono i capelli ed escogitano molte altre sofisticatezze lascive, mi pare che si comportino proprio come quegli Egizi. Adornando il recinto esterno del loro tempio carnale, attirano amanti idolatri. Ma se uno solleva il velo del tempio, cioè la loro retina, la tintura, il vestito, l'oro, il trucco, le creme e insomma il reticolato costruito da tutte queste cose composte insieme e vuole trovare all'interno la bellezza, rimarrà inorridito, ne sono certo. Dentro non troverà infatti la degna immagine di Dio che vi inabita, bensì al suo posto una prostituta, un'adultera che ha preso possesso dei penetrali dell'anima, una vera bestia, scimmia imbellettata di biacca. E l'astuto serpente, divorando con la vanagloria lo spirito della donna, prende l'anima di lei come sua tana. Il serpente seduttore, imbevendo tutto dei suoi filtri letali e deruttando il suo veleno d'inganno, ha trasformato le donne in prostitute. Infatti, la passione per gli ornamenti non si addice a una donna, ma a una cortigiana. Esse si danno ben poco pensiero di occuparsi della casa e del marito. Aprono invece la borsa di quest'ultimo e sperperano i suoi guadagni per le loro brame, per avere molti testimoni del loro apparire belle. Passano l'intera giornata sedute a imbellettarsi, spendendo il loro tempo con schiavi comprati. La mania delle donne per la cosmesi e le frivolezze. Condiscono la loro propria carne come se fosse una pietanza insipida. Consumano la giornata ad imbellettarsi, rintanate nelle loro stanze, così che nessuno possa biasimarli perché si fanno i capelli biondi, ma poi la sera ecco che dall'antro sbuca fuori alla luce delle torce come serpe quella bellezza adulterata. E alla loro contraffazione vengono in aiuto anche l'ubriachezza dei presenti e la luce esile. Il comico Menandro caccia via di casa la donna che si ossigena alle chiome. E ora striscia via da questa casa, infatti una donna onesta non deve farsi biondi i capelli e neppure impomatarsi le guance e truccarsi gli occhi. Queste miserabili non si accorgono che distruggono la loro propria bellezza sovrapponendone una estranea. Fin dal mattino, in preda alla convulsione, si strigliano e applicandosi vari miscugli che logorano la pelle e snervano la carne, fanno marcire il fiore naturale della loro bellezza con pozioni varie e con l'abuso di sofisticate pomate. Per questo motivo, senza i loro imbellettamenti, appaiono pallide e diventano facilmente preda delle malattie, avendo una carne già tutta rammollita, in quanto ricoperta continuamente con prodotti chimici. In tal modo disonorano il creatore dell'umanità, come se non avesse donato loro la bellezza che meritavano. È evidente poi che esse diventano inoperose per quel che concerne la gestione della casa. Stanno sedute a farsi guardare come se fossero dei dipinti e non fossero invece fatte per accudire alla casa. Per questo il comico fa dire alla donna intelligente: «Quali opere sagge e luminose noi donne potremmo compiere standocene sedute con i capelli ossigenati, distruggendo il nostro privilegio di donne libere e procurandoci così sconvolgimenti in casa, infedeltà nel matrimonio e figli illegittimi. Proprio questo comportamento licenzioso delle donne è fatto oggetto di irrisione anche dal comico Antifane nella sua commedia La lasciva, dove usa le parole che sono comuni a tutte loro e che esse si sono inventate per perdere tempo. Viene, torna indietro, poi di nuovo va, torna indietro, arriva, eccola, si pulisce, riparte, si impomata, si pettina, entra dentro, si affanna, si lava, si specchia, si rassetta, si profuma, si trucca, si unge e se ha qualche corda sotto mano si impicca. Meriterebbero di morire non una ma tre volte costoro che si servono di escrementi di coccodrillo, si ungono con schiume prodotte da ascessi in putrefazione, si ridisegnano con fuligine le sopracciglia e spalmano la biacca sulle guance. Esse disgustano perfino i poeti pagani a causa del loro comportamento. Come potrebbero allora non essere reiette dalla verità? Un altro comico, ad esempio, che le biasima, è Alessi. Anche di lui citerò qui dei versi che, con la raffinatezza minuziosa della loro locuzione, gettano onta sulla sfrontata svergognatezza di queste donne. E di solito egli non usa uno stile così raffinatamente minuzioso. Io provo veramente vergogna nel vedere fatto a tal punto oggetto di commedia il genere femminile, il quale, creato come aiuto per l'uomo, ne diventa invece la rovina. Prima di tutto badano al guadagno e a spogliare i vicini, tutto il resto è per loro secondario. L'una si trova ad essere bassa, si cuce sotto le scarpette. Una suola di sughero. Un'altra è troppo alta, usa una suola sottile e va in giro con la testa infossata tra gli omeri, così riduce la sua altezza. Una ha le anche troppo esili, si cuce sotto il vestito tessuti trapunti, cosicché i passanti al vederla se ne escono in esclamazione di lode per quei fianchi avvenenti. Ha il ventre grasso, o il petto come lo hanno i comici, li raddrizza con l'aiuto di asticelle e tende il vestito in avanti. Ha le sopracciglia rossastre, le ridisegna con la fuliggine. È di carnagione scura, si impomata di biacca. Ha la pelle troppo bianca, si strofina con belletto. Ha qualche parte del corpo che è bella, l'esibisce nuda. Ha denti ben fatti, deve a tutti i costi sorridere, cosicché i presenti vedano quanto è graziosa la sua bocca. Ma se il suo ridere non è piacevole, allora passa la giornata con un sottile rametto diritto di mirto tra le labbra, cosicché, lo voglia o no, queste siano sempre atteggiate a sorriso. Il lusso e il trucco sono inganno e vanità. Vi ho citato queste parole tratte dalla Sapienza profana per distogliervi dal perfido inganno che è la passione per l'imbellettamento. Il Logos, infatti, vuole salvarci a tutti i costi. Fra poco ritornerò sul tema con citazioni dalle Divine Scritture. e spesso il senso di vergogna per il biasimo che viene dagli altri, quando non si può restare nascosti, induce ad astenersi dai peccati. Come vedendo una mano coperta con medicamenti o un occhio spalmato con pomata, capiamo che vi è una malattia, così gli unguenti e le tinte della cosmesi rivelano un'anima malata nel profondo. Il divino pedagogo ci esorta a non fermarci al fiume estraneo, intendendo allegoricamente per fiume estraneo la donna estranea, la licenziosa che inonda tutti e che con la sua lussuria da prostituta si riversa su tutti per godere del piacere. Astieniti dall'acqua estranea, dice, e dalla sorgente estranea non bere. Ci raccomanda cioè di guardarci dalla corrente della volontà, affinché possiamo vivere a lungo e ci vengano aggiunti anni di vita, a condizione che non inseguiamo il piacere estraneo e non deviamo verso le eresie. Certamente l'amore per le buone pietanze e per il vino è una grave passione, ma non tanto grande quanto l'amore per gli ornamenti. Una tavola imbandita e coppe bevute una dopo l'altra sono sufficienti a saziare la voracità. Ma a chi ha la passione dell'oro, della porpora e delle pietre preziose non basta tutto l'oro che è sulla terra e sottoterra, né il Mar di Tiro, né le navi da carico che vengono dall'India e dall'Etiopia, e neppure il pattolo dove scorre l'oro. Se uno di loro diventasse mita, non sarebbe sazio, sarebbe ancora povero, perché desidererebbe altra ricchezza. È gente pronta a morire insieme a loro. E se la ricchezza è cieca, come appunto è, le donne che si lasciano affascinare da essa e pulsano in sintonia con essa, non saranno forse anch'esse cieche? Non avendo un limite nella loro avidità, sprofondano nella spudoratezza. Hanno bisogno e del teatro e delle sfilate e di una moltitudine di ammiratori e del girovagare nei templi e del sostare ai bivi per farsi vedere da tutti. E per piacere agli altri, infatti, che si adornano quelle che si vantano del loro volto e non del loro cuore. Come lo schiavo fuggiasco si riconosce perché è marchiato a ferro rovente, così l'addobbo variopinto e merlettato mostra che chi lo porta è un'adultera. Anche se ti vesti di porpora e ti adorni d'oro e ti cingi le ciglie di nero, la tua bellezza è vana, dice il Logos per bocca di Geremia.